1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora eccoci qua, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, anzi lo dico, lo urlo al vento, amici debosciati miei, che vi attardate nelle lunghe colazioni infinite. Noi siamo in pista dalle 5:30, Il nostro alpino Peter Vescapè, ricordiamo, si sveglia alle prima delle 5, 4:30, ma lui è alpino, quindi che gli frega, 4:30 è anche tardi, caro alpino. E allora oggi di cosa parleremo? Intanto parleremo ancora di immigrazione. Ieri ci sono stati i funerali a Terni di David Raggi, colui che è stato ucciso dal 29enne ubriaco marocchino. Avremo ospite il sottosegretario all'economia Zanetti, che ieri ha voluto ricordare come si potrebbero controllare con le impronte, si dovrebbero controllare con le impronte gli immigrati, quelli ovviamente che, non so, fanno la richiesta di status di profugo, di rifugiato, per evitare casi come questi in cui una persona espulsa due volte era libera di circolare in maniera totale, e poi è successo quello che è successo. Avremo anche l'avvocato della famiglia, avvocato di parte civile della famiglia di Raggi. Parleremo anche di carcere oggi, avremo una storia. È la storia di Mario Rossetti, uno che il carcere l'ha fatto da completo innocente e ne ha scritto un libro. È stato poi prosciolto, è stato in carcere diversi giorni, dirigente di Fastweb, e ci racconterà che vuol dire vivere il carcere da innocente dal di dentro. Questo dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 18 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: Fed in manovra sui tassi, lo spread risale a quota 98. Mentre il caso Lupi è ancora il titolo che tiene banco sui quotidiani. Per il Corriere della Sera, il caso Lupi agita il governo, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano: Renzi si tiene Lupi e attacca i giudici. Libero: Renzi balla coi lupi. E ovviamente il Manifesto invece parla di caccia al lupi, si apre la caccia. La Stampa: pressione su Lupi, pensa di lasciare ma il ministro nega. Il Giornale: Lupi resiste a Renzi. Il Messaggero: Lupi pressing per le dimissioni. C'è da dire che si distingue Repubblica, che apre su Israele: Israele vota e testa a testa, Netanyahu: ho vinto io. Certo, un po' l'azzardo come titolo di apertura, visto che appunto nella notte si è saputo che Netanyahu ha vinto, quindi non è testa a testa, ma Netanyahu ha proprio vinto le elezioni in Israele. Da cosa voglio partire però? Beh, Nichi Vendola in un'intervista prima a chi, ma ribadita anche a Repubblica, torna a lanciare la questione Dolce Gabbana, i figli, gli omosessuali, eccetera. Parla anche del suo futuro. Lo fa in questa intervista di Lello Parise. Nichi Vendola dice: da maggio per il sottoscritto cambia tutto. Due mesi e non sarà più presidente della Puglia. Voglio sposare Ed e adottare un bimbo. La nuova vita di Nichi Vendola dopo la politica. Dobbiamo decidere che paese siamo. Somministrare solo frammenti di diritti non serve a nessuno. È maturo il tempo per rivoltare l'Italia come un calzino. Non potrei mai andare a vivere in Canada dal mio compagno, è un paese freddo, sono una creatura mediterranea. Vabbè, questo l'ha già detto. Poi eccolo qui che entra nella diatriba con Elton John e Dolce Gabbana. Io penso che i due stilisti, Dolce Gabbana, abbiano usato parole inappropriate. Non ci sono bimbi chimici o sintetici. Conosco bambini meravigliosi accompagnati con immensa cura nei loro percorsi di crescita e sono figli di coppie gay. Mettiamola così. Spero che Dolce Gabbana sappiano correggere la loro caduta di stile. Poi però Vendola non rivela davvero se vorrà un figlio. Per quanto riguarda la mia persona, appena lascerò l'incarico di governatore rifletterò se affrontare la paternità oppure no. Questo è un pensiero che riposa in un angolo della mia vita e ho sempre rimandato. Una cosa però la vorrei fare subito. Ecco, una cosa. Quale? Scrivere un libro di filastrocche per bambini. Così Nichi Vendola, lo trovate su Repubblica a pagina 24. Questi non sono bambini, sono adolescenti, un po' più cresciuti. E oggi tornano in prima pagina sul Messaggero, ma anche sul Corriere della Sera, per la vicenda di, per le vicende di bullismo. Beh, circola questo video abbastanza incredibile di una violenza vera e propria nei confronti di un professore a Conegliano Veneto. Per la verità risale a un anno fa la vicenda. Botte, insulti, il prof vittima dei bulli. Io mi chiedo davvero come sia possibile. Sì, non è facile tenere le classi di alcuni adolescenti di questi tempi, ma ci sono, c'è questo video in cui c'è un professore che, sulla cui testa riversano un cestino pieno di rifiuti, poi lo minacciano, lo deridono e lui lascia l'aula. Ma non lo so, ma al di là dell'immagine della resa, ma come si è arrivati a una cosa del genere, a un punto del genere in cui degli adolescenti sono assolutamente i dominatori dell'aula e la vittima dei bulli è il prof che lascia l'aula? Per carità, mai la violenza, mai gli schiaffoni, ma come si è arrivati a una situazione in cui appunto un professore non è neanche padrone dell'aula in cui insegna? Comunque, botte, insulti, il prof vittima dei bulli, questo scrive il Messaggero, mi dà il permesso e la stura per leggere ciò che scrive il Corriere della Sera su questo tema. Il Corriere della Sera ospita una lettera di una quindicenne, Greta. Greta è una cosiddetta bulla, anche se lei si arrabbia molto, che è stata ripresa nelle immagini a sputare anche addosso a una disabile, una compagna disabile, insultata, spinta. Ebbene, Greta, mi pento di essere stata una bulla, ma ora datemi un'altra possibilità. È una quindicenne in una scuola del Vercellese, ha aggredito una compagna disabile. Prende carta e penna, scrive al Corriere e inizia così. Sono Greta, ho 15 anni, sono la ragazza che tutti voi dipingete come un mostro. Le persone che mi conoscono sanno che non sono violenta, anzi, sono dell'idea che le parole dette in una certa maniera possano far più male di uno schiaffo. Purtroppo, e risottolineo, purtroppo sto attraversando un brutto periodo e a volte presi dalla rabbia, dal nervoso, si fanno cose che non si dovrebbero fare. Ma ora sono dispiaciuta, anzi la parola esatta è pentita, sono molto pentita per ciò che ho fatto. Tornassi indietro non lo rifarei più. State parlando di bullismo, ma io non sono una bulla, mi fate passare per quella che non sono. Mi sento uno schifo, anche se so che per la maggior parte di voi è giusto così. Non sono una bulla, non sono una ragazza a cui piace fare del male alle altre persone. Ho sbagliato, lo so, chiedo scusa, ma ognuno merita una seconda opportunità, a maggior ragione se si è capito l'errore commesso. Questa è la pagina che trovate, cioè la lettera che trovate a pagina 22 del Corriere, con anche lo studio sul bullismo, l'invito a denunciare sempre queste vicende. Oh, invece il Messaggero ha questa notizia, saltando proprio e cambiando argomento, che è abbastanza clamorosa. La notizia viene messa con un richiamo molto forte in prima pagina e riguarda 800 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, di fatto, scrive il Messaggero a pagina 7, sono illegittimi nella loro posizione. Entrate, sono illegittimi 800 dirigenti su 1100, sono coloro che sono stati promossi senza concorso dei funzionari. È una bomba orologeria, scrive il Messaggero. Ora è scoppiata con la sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno dichiarato illegittime le norme che in questi anni hanno permesso alle agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali in attesa di successivi concorsi, quindi di fatto senza concorso, e per questo in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. La rilevanza appunto è tale che riguarda 800 dirigenti su 1100 dell'Agenzia delle Entrate. E al di là dell'impatto sulla struttura organizzativa potenzialmente devastante, la sentenza potrebbe avere effetti ancora più rilevanti sui rapporti tra cittadini e amministrazione fiscale, se emergerà che l'illegittimità delle nomine dei funzionari si debba estendere in qualche modo agli atti da essi firmati. Cioè, immaginate che uno adesso possa contestare un atto firmato da uno di questi 800 dirigenti in quanto dirigente considerato illegittimo nella propria posizione. Sarebbe devastante la portata di un'applicazione di questo genere, ma staremo a vedere. Oh, circola questa cosa, beh, è una curiosità che vi voglio dare prima dell'articolo Mani sul volante. Sapete che il papà di Renzi ha un account Facebook che si chiama così, Orso Saggio. Sapete il papà di Renzi, Tiziano, che cosa ha scritto su Facebook mentre stava vedendo evidentemente la partita Fiorentina-Milan, che mannaggia lui è stata vinta poi dalla Fiorentina 2-1? Se l'è presa con il terzino della Fiorentina Richards, Mika Richards, che è un giocatore di colore, con le testuali parole, giocatore di colore: aquilani, rosi e l'abbronzato terzino sono da rimandare a zappare. L'abbronzato terzino. Ah, hai capito il giudizio tecnico di papà Renzi, questo almeno scrivono i giornali, e viene riproposto a pagina 5 del giornale l'account Facebook con questo commento: l'abbronzato terzino. Vabbè, manco fosse il presidente degli Stati Uniti, direbbe qualcun altro. Siamo al momento Mani sul volante, l'articolo che ci fa più sorridere di questa giornata, e lo trovate sul Giorno con Elena Polidori. Elena Polidori ci racconta come dice e denuncia Open Police. Sapete, dall'inizio della legislatura, cioè da 98 settimane, quanti sono stati i cambi di casacca dei politici in Parlamento? 235, 119 alla Camera e 116 al Senato, politici eletti 98 settimane fa in un partito, e in 235 nel frattempo hanno cambiato partito. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il dolce gabbano dell'informazione. Ah, beh, effettivamente sì. Allora, cari ascoltatori, lupi, la questione lupi è centrale, è politicamente centrale. Il momento di ieri, decisivo secondo i giornali, sono state le varie telefonate che Renzi ha fatto a Lupi, e tutti i giornali raccontano che la posizione del Presidente del Consiglio è questa nei confronti del Ministro delle Infrastrutture: vedi tu, ma prima lasci e meglio è anche per te. Questo per esempio è ciò che avrebbe detto Renzi a Lupi in un articolo del Messaggero, si legge. Oppure sulla Stampa: caro Maurizio, non credi che questa sarebbe, secondo la Stampa appunto, l'altra invocazione alle dimissioni da parte di Renzi a Lupi? Ricordiamo che Lupi non è indagato al momento, sono stati arrestati in calza del mega manager dei lavori pubblici e tre imprenditori, l'accusa è quella di appalti per le grandi opere, ma in tutte le intercettazioni, ora lo vedremo, spunta anche il ministro alle infrastrutture. Secondo Francesco Verderami, a pagina 2 del Corriere della Sera, Renzi chiede un gesto spontaneo. Renzi, scrive Verderami, vuole la testa di Lupi, ma vorrebbe sembrasse un gesto spontaneo. Poco importa che il ministro alle infrastrutture non sia nemmeno indagato nell'inchiesta della Procura di Firenze sull'alta velocità, ma gli viene addebitata una responsabilità politica nell'affare che mina l'immagine del governo. La risposta però di Alfano è: non si dimetterà. Ieri, frenetiche telefonate, Alfano difende però il suo ministro, il suo, perché è del nuovo centrodestra. Ed eccolo qui, secondo Renzi sarebbe già pronto il sostituto, questo racconta Repubblica. Spunta l'ipotesi Cantone, l'idea è quella di spingere Lupi alle dimissioni. Entro oggi dimettiti, avrebbe detto Renzi ieri a Lupi. Non è successo. Spunta già l'ipotesi sostituzione Cantone, ma racconta Repubblica, in questo retroscena di Francesco Bei e Tommaso Ciriaco a pagina 10, l'alternativa, se no, è che Renzi tenga l'interim dei lavori pubblici almeno fino all'Expo, oppure si parla di Emiliano, che è candidato per il PD alla Regione Puglia. Comunque Renzi sarebbe già pronto con il sostituto. Lupi invece tiene duro. toccano i miei affetti più cari, non posso andarmene ora. Non è un'intervista quella di Elisabetta Soglio a pagina 3 del Corriere della Sera, ma come dire, un collage di quelli che sono i suoi sentimenti, le sue sensazioni confidate a qualcuno del suo entourage. Non c'è nessuna contestazione, nessun illecito, nessun estremo di reato. Anche se il dubbio rimane, vale la pena restare ancora? Questi sarebbero i pensieri di Lupi. Ho educato i miei figli spiegando loro che non bisogna aver paura di combattere per le proprie idee, non posso tirarmi indietro proprio ora. Nel frattempo, racconta il Corriere, la segreteria gestisce gli appuntamenti, conferma per questa mattina la presenza del ministro alla fiera di Ropero per l'inaugurazione dell'evento Made Expo. Chi dice a Lupi, tieni duro, non lasciare, è Nunzia De Girolamo, intervistata a pagina 3 del Corriere. Ricordate che lei si dimise da ministro perché, dice, fu accusata di aver fatto pressioni per far avere a mio zio un piccolo bar in un posto dove stava già da 30 anni, come venne poi accertato. Dico a Lupi, assolutamente non dimetterti. Io come lui non ero indagata, mentre chi mi intercettò abusivamente oggi è rinviato a giudizio. Sì, mi dimisi e lo feci nella solitudine più totale, anche i miei genitori lo seppero da Sky. E allora perché è pentita? No, lo rifarei 100 volte. Ero sola, il mio governo era debole e non mi difese, ma Lupi deve rimanere. Così intervistata da Virginia Piccolillo a pagina 3 del Corriere, Nunzia De Girolamo dice Lupi rimani. E però spuntano nuovi articoli che compromettono almeno l'immagine politicamente di Lupi. Sentite qui Sebastiano Messina pubblica la circolare del Ministero delle Infrastrutture del ministro Lupi, a pagina 12, in cui si legge non si accettano regali oltre 150 euro di valore ai dipendenti, circolare voluta dal governo Monti e firmata dallo stesso Lupi. Per la verità Lupi, certo, si parla di questo Rolex da 10.000 euro, ma non l'ha mica preso lui, l'ha preso il figlio. E lui dice io non l'avrei preso al suo posto. Certo, però per Sebastiano Messina questa regola dovrebbe spingere a dimettersi subito. L'ha scritta proprio lui, il 9 maggio, è il codice Lupi, un decreto che fissa in maniera chiarissima cosa è tassativamente vietato a tutti i dipendenti del suo ministero. Regali, compensi, altre utilità. Il dipendente non accetta per sé o altri regali o utilità salvo quelli di uso di modico valore, ovvero non superiore a 150 euro. Dunque il ministro, scrive Repubblica, sa benissimo come bisogna comportarsi in un ministero visto che la norma l'ha scritta lui. Ripeto, però non ha accettato lui soldi, ma forse ciò che più compromette, raccontano il Corriere e anche Repubblica, è questo. Le chiamate del ministro per il figlio e i manager con le tangenti dell'1%. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 5 del Corriere della Sera, le varie telefonate che dimostrano come sia stato proprio il ministro a chiedere a Incalza di avere un incontro con il suo figlio Luca. E poco dopo il funzionario si attiva con Perotti, uno degli arrestati. Alla fine del mese tutto è risolto. Il giovane ottiene un incarico in un cantiere dell'ENI, dove anche Perotti ha ottenuto la direzione dei lavori. Ma non è sufficiente. L'aiuto fornito da Perotti a Luca Lupi, cioè il figlio di Lupi, non è limitato al conferimento dell'incarico. Il 4 febbraio 2015 Perotti chiede a un amico che lavora negli Stati Uniti di dare assistenza a un loro ingegnere che al momento lavora presso lo studio Moore e verrà impiegato a New York. E poi anche gli amici di Luca Lupi, gli amici del figlio, racconta il Corriere, mandano mail con curriculum agli imprenditori arrestati dicendo sono l'amico di Luca Lupi, ecco il mio curriculum. Cioè fa capire il Corriere che dal lavoro al figlio forse c'era anche il lavoro poi per gli amici del figlio. Comunque ci sono tanti articoli su questo. Il Sole 24 Ore racconta per esempio che la chiave di tutto è questa società Greenfield. Secondo Silvia Pieraccini, attraverso questa società Incalza sono arrivati 700.000 euro, sono i compensi pagati, questo secondo i magistrati, al super dirigente da una società vicina a Perotti nel periodo 1999-2008. È lì che si sta cercando di studiare qualcosa di più. Vabbè, sul Fatto Quotidiano si racconta invece la casa presa dal genero di Incalza, La casa, Marco Lillo, pagina 5, una casa che il genero ha pagato 390.000 euro, ma il prezzo vero era 1.140.000, ma dal notaio si presentò con 390.000 euro. E il resto? Chi non ha una casa pagata in parte da altri? Voglio dire, è un tipico sport italiano, mi sembra di poter dire. Tutti voi potete dire certamente di avere una casa che in parte è pagata da altri, o no? Oh, c'è da dire che Di Pietro, che è stato anche ai nostri microfoni, sta facendo tutta una serie di interviste a raccontare "Io in calza lo mandai via", oggi ne fa ancora un paio, La Stampa, Repubblica. Libero però invece la vede in modo diverso. Così Di Pietro e i suoi hanno tirato il pacco allo Stato. Giacomo Amadori racconta un contenzioso che riguarda un imprenditore che aveva avuto una commessa per ricostruire alcune città, Ancona, Macerata e Ariano Irpino, per la ricostruzione post bellica, una ricostruzione un po' ritardata per la verità. L'imprenditore Edoardo Longarini ottenne questa concessione per la ricostruzione di queste città e poi fu tutto fatto saltare. Lui è partito con un contenzioso che a questo punto ha vinto e quindi rischiamo di pagare per questo contenzioso col ministro delle infrastrutture, che allora era Di Pietro, col ministero, al signor Longarini 1.200.000.000 per un'opera mai fatta. È il conto lasciato da Di Pietro, questo almeno titola Libero. Una commessa persa, l'imprenditore fa ricorso, l'allora ministro non aspetta il verdetto dei giudici, decide di affidarsi all'arbitrato ed eccolo qui il conto, 1.200.000.000 da pagare a questo imprenditore. Così giura Libero. Eccolo qui uno che ha sicuramente una casa pagata in parte da qualcun altro. Mauro Meazza, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro. Ma credo, come molti, pagata in parte dalla banca, che però ha il vizio di rivolere poi i soldi indietro. Viziaccio, hai presente? Viziaccio vecchio. Sono le banche, si sa, sono spietate, ti prestano i soldi ma poi li rivogliono. A questo proposito, ma perché ti parlo di banche? Perché oggi sul Sole 24 Ore i colleghi Luca Davia e Marco Ferrando spiegano che ci sono segnali incoraggianti nelle richieste proprio delle banche italiane all'asta TLTRO, detta breve, la BCE mette a disposizione dei soldi purché le banche a loro volta li prestino per imprese e famiglie, quindi per la ripresa, e questo tipo di richieste sono state abbastanza elevate da parte delle banche italiane, 32 miliardi, quindi c'è da sperare che poi questo si trasferisca, se volete, anche a mia insaputa, se volete farmi un regalo, se no, come hanno fatto in tanti, si chiedono i soldi alle banche e che poi però, preciso, di solito li rivolgono indietro. Ecco, io non vorrei che qualcuno si facesse dei pensieri diversi. Non rivorremo indietro invece il libretto sul Jobs Act, ma si può dire anche riforma del lavoro, che domani sarà dato con il Sole 24 Ore, un Instant per illustrare le novità che, come sai, sono già entrate in vigore in parte, altre arriveranno, ma appunto il contratto cosiddetto a tutele crescenti c'è, è definitivo, quindi domani con il Sole 24 Ore questo volume per spiegare il tutto. Hai visto che pasticcetto in l'Agenzia delle Entrate, caro? Sì. Abbiamo un problema, Houston, perché lì c'è una questione di nomine, ma soprattutto, come puoi leggere nelle pagine di... Io l'ho letta sul Messaggero prima, ma adesso... Leggi anche sulle pagine di norme e tributi, perché lì c'è un problema della validità degli atti emessi da questi 1200 funzionari. E siccome poi sono atti in cui girano dei soldi appunto tra lo Stato e i contribuenti, la questione è molto molto delicata, ma te lo spiegano bene Mobili e Parente oggi nelle pagine di norme e tributi, oltre che sul Messaggero, per carità, siamo sempre per il libero mercato. Questo è stato un certo pasticcetto straordinario. Sei straordinario, Maurino. In che senso? Sei per il libero mercato. Noi siamo per il libero mercato, cioè più giornali ci sono e secondo me meglio è, anche più giornali leggi tu, però leggi sempre anche Sole 24 Ore, io questo te lo consiglio, anche perché scoprirai oggi che che c'è una notizia positiva perché riguarda l'Expo, ancora deve partire ovviamente, ma ATM, l'azienda di trasporti qui locale, ha già annunciato che farà delle assunzioni per poter potenziare il servizio. Allora, insomma, il lavoro, l'Expo chissà che sia una buona notizia. Oggi vedi, ti ho trovato diverse buone notizie. Se adesso tu mi trovi uno che mi paga anche il residuo con la banca, che insiste nel rivolgere i soldi per la casa, è un'ottima notizia. La mia giornata potrebbe svoltare. E per intanto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan e Mauro Beazza, i gemelli del gol dell'informazione. Soprattutto di questi tempi e quest'anno, Milan e Inter, certo, faremmo comodo forse. Faremmo comodo. Allora, Susanna Camusso rilascia un'intervista al Corriere della Sera per dire che Landini sbaglia dal punto di vista del suo impegno politico, che poi non è un partito. Lorenzo Salvi ha intervista la leader CGIL a pagina 15. Il problema non è fondare una cosa e chiamarla partito oppure no, dice Camusso. Si può chiamare movimento, associazione delle associazioni, chiamatela pure birillo. Ma se si basa su un programma politico generale e si va oltre la rappresentanza nel mondo del lavoro, diventa oggettivamente una formazione di ordine politico. E questo, come Maurizio sa, non fa bene al sindacato e quindi nemmeno ai lavoratori. Intendiamoci, aggiunge Camusso, il sindacato è per forza di cose anche un soggetto politico, ma fa politica sul lavoro e partendo dagli strumenti che gli sono propri, come la contrattazione. Rappresenta i lavoratori, insomma, non i cittadini in senso lato. La sua forza sta proprio in questa parzialità. La CGIL rivendica sempre la centralità del lavoro ed è molto gelosa della propria autonomia. Non era forse la FIOM a rivendicare addirittura l'indipendenza? Insomma, dice, sarò il 28 insieme a Maurizio Landini, che però non deve snaturare l'iniziativa, cioè tradurla in qualcosa di eminentemente politico e non invece, come vorrebbe Camusso, di politica sul lavoro. Poi racconta Susanna Camusso, io ho un'idea radicale, il mio mandato scade nel 2018, credo ci sia un tempo per tutti e dopo una vita intensa penso uno si possa dedicare ad altre cose, chiama davvero. Quindi la lettura e il mare, che mi piace molto. Nel 2018... nel 2018 non potei andare in pensione, prima devo cambiare la legge Fornero, dice Susanna Camusso, che naturalmente va cambiata, non per me, ma per gli sconquassi sociali che ha fatto e continua a fare. Poi invece ce la farò e andrò in pensione. Credo che ognuno a un certo punto debba concludere il suo percorso lavorativo. Comunque la leader CGIL la trovate intervistata a pagina 15. Mentre dall'altra parte è Berlusconi che ha scritto, in realtà la lettera è emersa ieri nel suo testo, ma questa lettera alle Olgettine, basta soldi, vi voglio bene, è una lettera che Berlusconi scrisse il 29 dicembre 2013, è emersa ieri nel processo Rubiter. Inizia così, con un cara e poi il nome e la firma di Berlusconi in fondo, sono le uniche parole che sono scritte di pugno da Silvio Berlusconi, il resto è una missiva uguale per tutti, stampata, nella quale Berlusconi scriveva alle Olgettine: inutile dirti che non c'è nessun riguardo per te e gli altri ospiti delle nostre cene. L'aiuto che io, seguendo la coscienza, ho continuato a dare a te e alle altre ospiti per lenire gli effetti della devastazione di questi processi e che questi processi hanno causato la vostra immagine, dignità, la vostra vita, rischia di essere incredibilmente strumentalizzata ipotizzando possibili reati. Ma i miei legali, pur comprendendo la generosità, l'altruismo della mia iniziativa, mi invitano con assoluta determinazione a non continuare col sostegno economico mensile. Insomma, vi voglio bene, ma da ne gneminga più, come dicono a Milano, cioè non ci sono più soldi da pagare. Questo dal 29 dicembre 2013, il testo della lettera di Berlusconi alle Olgettine. Oh, c'è solo spazio per dire che cosa? Beh, per dire che in Francia hanno proposto una legge, come racconta il Secolo XIX, pagina 8, nella quale voglio, con la quale vogliono mettere uno stop alle sfilate di ragazze e ragazzi, più ragazze molto molto magre, diciamo così, nelle sfilate di moda. Carcere per chi utilizza donne che hanno un indice di massa corporeo sotto a 18. In pratica qualcuno dice sotto i 55 kg, però dipende dall'altezza ovviamente delle modelle. Nessuna donna dovrà mai più morire per la moda. Questa è la proposta di legge in Francia. Mentre siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina, Nino Materi sul Giornale, per raccontare che Belen e De Martino non sono più insieme. Per Belen manca il guizzo. Io ho bisogno di guizzo, hai capito De Martino? C'ha bisogno del guizzo Belen, il guizzo. Ma chi se ne frega!